Va ora in onda per la seconda volta Shabalon, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone e alle riprese video Valeria. E sappiate che siamo all'aria aperta e piove ove ove ove. È venerdì 2 dicembre e questa è l'ottava puntata di Shabalon. Puntata eccezionale, dopo essere stati a Roma all'aria aperta abbiamo deciso di farla anche a Foiano all'aria aperta. Gli amici che ci stanno seguendo in diretta video. Hanno già visto per due volte la sigla, ma dovete capirci, fa un po' freschino. E chiaramente Enzo, questo è il motivo, diciamolo brevemente, tra 5 minuti quando finirà di suonare le campane. Ma non si sentono, non si sentono. Secondo te sono del vespro o del mattutino queste campane? Lo saprei io. Allora, pensa. Abbiamo già visto un po' di ospiti, ricordiamo che questo è Shabalon che può essere seguito in mille modi. È la versione outdoor di Shabalon edizione 2016. Allora, 16-17. Prima di iniziare facciamo subito un bel brano così ci scaldiamo. Pensa, caro il mio Marcello, sì? Che il primo brano, guarda, non sto più lo canta Flo nelle piume d'oca del mio giubbotto. Can it tempo en la roulotte? Ma guarda, è del 2016. Avessi capito. Quand le monde est trop rond et tu cherches l'équilibre. Quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité, le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour, je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens manquent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais, ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons deux ans et du courage. Le monde en ce monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors que tu n'as plus de raisons de rester. Quand tu n'as plus de raisons de t'en aller, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter des nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons la vie de passant. Lorsque tout me touche, pour l'amour c'est vrai que j'ai piétiné. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons d'autant et du courage. Jure que nous aurons la vie de passant. Lorsque tout me touche, pour l'amour c'est vrai que l'ottava puntata di Shabalon, caro il mio Marcello. Certamente. Enzo, Marcello. Beh, anche Simone, più triste. Sì, poi solleviamo il tono. Come si fa a ascoltare e seguire Shabalon? Chiaramente sul nostro profilo Facebook Piazza Alta, in questo momento siamo in diretta, ma a brevissimo Simone monterà il podcast e ci potrete riascoltare in eterno praticamente. Esatto. Tra l'altro abbiamo, vedete anche vari spot che passano durante la settimana, che studiamo per giornate intere. Ma perché questa puntata fuori, Marcello? Questa puntata fuori ha tanti significati. Quello più importante direi che... è che dentro c'è una scena. Esatto. E quindi noi è l'unico. Siamo un po' arrangiati. No, secondo parliamo... me, Enzo, perché l'argomento di questa sera ben si, come dire, è molto attinente. Come dire. Ecco il titolare che si affaccia. Allora, vogliamo dire. Sveliamo l'arcano e soprattutto andiamo anche a presentare i nostri ospiti di questa sera. Diciamo che questa è una trasmissione che volevamo fare da anni, ma, e finalmente siamo riusciti a farla. Questa sera parleremo di un grande personaggio di Foiano che negli anni 70, 80, 90 ha fatto divertire e si è divertito. Esatto, parecchio. Devo dire, Enzo, che se ricordiamo un po' anche quello che abbiamo, gli argomenti che abbiamo trattato anche negli anni passati, ogni volta che c'è stato degli avvenimenti importanti o delle cose simpatiche, lui c'era di mezzo. C'era di mezzo, e quindi è importante anche e quindi per questo. Parliamo e abbiamo delle testimonianze. Esatto, parliamo del Picche, che è inutile dire che si chiamasse Mario Moretti, chiaramente. No, ma non t'ascoltavo. Se lo sapeva, Mario Moretti. Un po' m'annoia. E perché da tutti è conosciuto col Picche e lo facciamo con la figlia Rachele. Buonasera Shabalon, che ha una voce profondissima, dopo che ci canterà anche un pezzo, con Federica, ciao, e che sono le figlie ovviamente di Mario del Picche, e con un grande amico e il figlio io. Ma ecco, figlio putativo, diciamo, Giorgio, Giorgio Gervasi, che con questa puntata detiene assolutamente il record di presenze nelle nostre trasmissioni. Nelle nostre trasmissioni. Siamo a un 30% delle trasmissioni in generale e, a batte lui. E per questo lo ringraziamo, perché diciamo è uno dei il Pippo Baudo delle nostre trasmissioni. Allora, da dove iniziamo? Io mi ero preparato delle domande, ma allora, facciamo così. Ci stanno guardando anche dalla provincia di Treviso, dalla provincia di Brescia. Magari da Rigutino anche. Da Rigutino. Di chi stanno parlando? Del Picche. Perché parliamo? Chi era il Picche? In ogni comunità sicuramente ognuno di noi trova quel personaggio, quella persona che è un po' più caratteristica, che è un trascinatore, un trainatore della comunità stessa. Scusa, ma è arrivato un altro ospite? Che si chiama? Teo, il nipote del Picche. Quindi c'è proprio una discendenza. Allora, ricordiamo diretta. Che... Mario il Picche non c'è più ormai da qualche anno, da 16 anni, dal 2000, esatto, però la sua presenza, se siamo ancora qui a parlarne vuol dire che qualcosa di buono e importante ha fatto. Con chi iniziamo a parlarne? Rachele. Io direi che la diretta interessata può essere Rachele, che ci dà diciamo così, dici la tua, delle pennellate. Allora, domande, allora facciamo una cosa, allora aspetta, facciamo così, partiamo dall'esterno e poi entriamo in famiglia. E chiedo a Giorgio, chi era il Picche, o meglio, per te, aveva qualche anno più di te, giusto Mario, se non sbaglio? 6 anni più di me. Chi era il Picche a Foiano, che rappresentava? All'epoca sì. E si parla degli anni 70. Se vogliamo, la trasgressione del momento, perché era un periodi particolari, in quei momenti ovviamente c'erano delle trasformazioni, direi storiche, e lui è stato un personaggio di queste trasformazioni storiche, soprattutto nel nostro paese. A livello sociale intende anche? Come... Sì, a livello sociale, politico se vogliamo, sotto tutti gli aspetti, cioè... è stato uno stravolgimento dalle situazioni classiche del momento a quello che poi è venuto fuori attraverso lui e tutto il gruppo che era insieme a lui. Anche perché parliamo degli anni 70 e parliamo di un paesino di provincia che quindi... Un paesino che all'epoca addirittura era ancora più piccolo, neppure 8.000 abitanti. Ecco, quindi diciamo quello che è stato fatto qui aveva una valenza ancora più importante, perché non era Milano, voglio dire... Certo, no, non solo, ma sono state fatte cose che ancora magari anche in grandi città non c'erano, cioè tipo la prima birreria, qui si sta parlando veramente di 40 anni fa, il primo pub, quando magari in città non grandissima, città come Arezzo oppure Siena, ancora non esistevano. E qui ci stiamo già parlando un po' del circolo, cioè circolo dei Lumacons, di cui abbiamo fatto anche una puntata, ti ricordi? Certo, sì, abbiamo fatto una puntata. Ora magari non so se voi volete parlare più del personaggio in senso stretto, stasera presumo, insomma. Ecco, quindi diciamo che ha avuto delle idee, anche la Woodstock di Foiano, voglio dire, ma poi ne parliamo, fatta in Villa Magia. Sì, la Woodstock è stata una copia della Woodstock vera, perché è stata fatta l'anno dopo, però per un paese come Foiano pensare di fare in una villa, in un prato, una festa di quel tipo, che andava dal primo pomeriggio, proprio dalle 2 del pomeriggio fino alla notte inoltrata, quasi all'alba, è stato un avvenimento eccezionale anche quello. Questi sempre anni 70? Sempre anni 70. No, lo dico perché sia la Rachele che la Federica mi sa che non c'erano negli anni 70. Invece, ti ho visto con una faccia interessante. Sì, no, voglio fare una domanda. Mi interessa perché i precursori, diciamo, di grossi movimenti anche che poi sia culturali che sociali, hanno bisogno di tempo per apprendere nel tessuto, Senti, partono chiaramente da una persona o da un gruppo di persone che con l'azione mettono in essere. Uno dei più complessi. Non è che io tutte le volte perché saranno tutti qui a aspettare il punto interrogativo. Ma non era una domanda. E invece com'era in casa com'era avere il babbo Picche? Ma era sostanzialmente un divertimento, dalla mattina alla sera. Sembrava di vivere totalmente nella favola. Non prendeva mai le cose sul serio, era sempre un ridere, sempre. Che ne so, quando tornavo da scuola gli dicevo: babbo, ho preso 6,5 al compito, ma 6,5 è troppo, meglio 6 meno, perché almeno la prossima volta ti impegni di più. Si partiva da qui. Poi fa conto, di tutte le cose lui la prendeva sempre sul ridere, sempre sul... Cioè non era come avere un genitore, era un amico, insomma. Che bellezza. Beh, sì, bello, insomma, sì, dire. Sì, sì, sì. Assolutamente. Quanti minuti siamo? Mai... Vai, scusa. Mai toccato con un dito, solo una volta la mia sorella, forse, una buscate. Fede, vuoi dire una parola? È stata una bella esperienza? Sì, sono stata la prima, è stata una bella esperienza. No, vabbè, ma immagino che insomma fosse veramente, come diceva Rachele, appunto, troppo, troppo divertente. Allora, facciamo una cosa, prima di iniziare a vedere un po' di foto e raccontare un po' di eventi, aneddoti, andiamo con un altro straordinario brano che vi voglio annunciare invece di disannunciare. Pensa, Marcello, che sono i Via Lattea. Incredibile. Con Marina Leda? Sì. Io dai Via Lattea mi sarei aspettato un altro genere di titolo. Guarda, è una ricerca settimanale. Complimenti. Musica. Allora, intanto... Costruì una mongolfiera cercando sull'Atlante un sogno, una chimera, un'ultima illusione che lo facesse uscire vivo dalla restaurazione. I cacciabombardieri decollarono all'istante, scaricarono i cannoni su quello strano aliante, e l'imperatore mandò i servi del potere che lo doppiassero di botte e doppi loro da bere. Cercando in quei solchi una geografia, un sentiero che dicesse non finire vita mia. E i cacciabombardieri si levarono per loro, intonando a suon di scoppi di lugubre dei cori. E l'imperatore, ormai vecchio e delirante, corresse i loro sogni con una spolla gente. Torniamo in diretta. Allora, sempre in diretta Shabalon, il podcast che state ascoltando in audio, in la diretta che state vedendo. Pochi secondi fa eravamo a 21-20 contatti di nuovo e quindi Marcello al momento si toglie il giubbotto. Ma se era 21 dovevi togliere anche la felpa. Meno male che ho messo la fascia del dottor, la pancera. Ed ecco che Marcello si toglie il giubbottino. Bene, bene, bene. Siamo, vi ricordo che stiamo parlando benissimo. Stiamo parlando. Vabbè, con... a tutti. Ma ancora non è detto, se arriviamo a 22, ogni due toglie una cosa. Grazie a tutti. Allora, stiamo parlando appunto del PIC, che è stato un personaggio. Iniziamo a fare delle domande in base anche alle foto che hanno portato da casa. E anche ora, Giorgio, l'esperienza, ricordi che ognuno può avere. Certo. Perché, Giorgio, allora, vediamo con Giorgio. Giorgio, stai guardando delle foto, falle vedere anche qua in diretta. Quale foto? Questa qua. Si stava guardando questa. Ecco, raccontaci un po' di questa foto. Questa qui è quando mi è venuta a trovare nel viaggio di nozze. Dove? Aspetta, te eri in viaggio di nozze e lui è venuto a trovare. Di dove? Ha chiesto l'aiuto del pubblico perché non affrontava il viaggio di nozze. Devo spiegare la cosa. Allora, siccome avevo la prima moglie in stato interessante aveva avuto una minaccia d'aborto e allora non dovevo e non potevo andare al giro, dice vabbè, se vai piano piano e vai qui a 100 km e così feci. Allora dico: Katia, trovami a Castiglione della Pescaia, dalla Tuzia, l'albergo. Benissimo, e così fece. E quello fu il viaggio di nozze, no? E d'altronde così ho a casa. E feci così. Arrivo lì e qui bisogna dire la verità. E la Katia 3 volte al giorno mi chiamava: com'è, tutto bene? E io che gli dicevo: ma perché non viene anche te? Ma lo sai com'è il picche? No, lo sai com'è? Dico, ci penso io. Allora dico: quando c'è così? Perché a quei tempi non c'erano i telefonini, ovviamente. Dice: guarda, lui arriva fra una mezz'ora. Dico: allora chiamo fra una mezz'ora. Così feci, chiamai. Dico: ascolta, dico, ma mi viene a trovarmi, rompi i coglioni qui da solo così. Già, c'ho da fare un sacco. Da solo, cioè nel senso, era in viaggio di nozze, ma se rompeva i coglioni da solo. No, era così. Allora, dici: no, c'ho da fare, ma che c'ho un sacco di lavoro da fare. E va bene, dico, allora se non vieni ci si vedrà quando torno. Questo poi è raccontato dalla Katia, quindi la moglie, e fa, dice: oh, come staccasti il telefono, mi fa, va a preparare qualcosa. Io non gli chiesi neanche perché, andai su, tu le prime cose che trovai le presi. Dopo 2 ore sentii alla porta, tun tun tun, era lui con la Katia. Meraviglioso il viaggio di nozze insieme. Beh, voglio dire, mentre no, aspetta, sì. Poi dopo loro si lasciarono lì e lui si andò via da solo. È chiaro, non poteva essere altrimenti. Che poi non è proprio stato chiarito fino in fondo se era a favore dello sposo o delle spose, no? Questo può essere. Mentre andiamo a vedere altre. Aspetta, che ci. Vai, vai. Ah, puoi inquadrare questa, Valeria? Fai mare con lo zio Sino. Dove, all'Elba? Al mare, no, penso, questa è Maremma. Ancora ma erano troppo vicini, giovani, per eh? Essere, sì. Fantastici. Lo zio Marcello. Parliamo invece anche di questa qua, che questo è un altro episodio di Foglianese importante. Il film Albergo Roma. Dove il Picche interpretava? Interpretava il macellaio, macellaio. Il macellaio. Questo... Questa è una foto fatta dal... Meglio, da questa. Dal dottor Testa sono state fatte tutte, o dal Fatucchi, ora non mi ricordo di preciso. Era vera la carne? Sì, era vera. Sì, era vero. Sì, tutto vero. Allora, diciamo che quando è che avete iniziato a fare, a divertirvi, in che anni, quanti anni aveva su per giù il picco? No, voi vi siete la vostra amicizia da no, qua, no, a quando no, risale? No, non così, perché ovviamente avendo questa differenza di età che adesso può sembrare assurda, 6 anni, ma a quell'epoca, cioè quando io ne avevo 16, magari lui 22, ovviamente l'età era molto diversa, no? Perché io ancora ero ragazzetto e lui era già, come si dice da noi, un omino. Diciamo, allora, noi abbiamo cominciato a frequentarci, sì, quel periodo di 17-18 anni io. E quindi 24 anni lui. Sì, e lui 24 anni. Da allora fino a che sfortunatamente è morto. Cioè. E quali, che ricordi hai di qualche episodio veramente divertente? Si sta fino... Diciamo qui apposta, tanto è caldo. Cioè, dimmi il genere. Allora io, per esempio, ho visto un'ultima foto pubblicata su Facebook dove ti hai i capelli lunghi, suonavi un flauto traverso, non so se lì è successo qualcosa lì o cos'era quello. Quella era una foto pubblicitaria dei Lumacons Group, della canzonetta del carnevale. Guarda, facciamo allora un accenno ai Lumacons e soprattutto alle canzonette. Ce n'hai parlato anni fa, ma lì ci sono delle storie troppo belle. Raccontaci un po' come andavano le canzonette quando c'erano i Lumacons. Sì, una premessa, cioè siccome non era come adesso, non c'era niente praticamente, noi per mangiare qualcosa la sera di notte andavamo a Arezzo dal merda per dire a mangiare la pizza. O dal topo. Sì. O dal topo. No, ancora io il topo non esisteva neanche allora. E... Dal merda si mangiava da Dio, Almeno sapevi più o meno il menù, sì, di che parlava. Sì, no, noi si andava lì allora, figurati. Oppure se andava, ora non mi ricordo il nome, a Badicorte, che gli si fregava ogni cosa quando si arrivava. Infatti si chiamava quelli della mano nera. Però dopo era contento perché se andava in 20 persone, tutti la pizza, tutti le birre. Vedo che faceva ristorante strike, la mano nera ringrazia, ha messo like. Su. E quindi like. Dico, la situazione nasce da questo, cioè... Le donne a quei tempi fortunatamente forse stavano in casa, uscivano solo... Maschilista! Inizia a essere anziana, vedi? Perché prima parlava così. Anziano, no, maschilista! Per loro! Per la loro incolumità, per noi, no? Per noi. Perché noi si stava tutta la settimana a parlare delle donne, perché quando uscivano c'era già il piano, no? Pronto, certo. E loro uscivano... O il sabato sera o la domenica pomeriggio, chiusi i battenti. Poi chi era fidanzato andava in casa, chi non era fidanzato non ci andava. E ci si ritrovava noi tutti al bar, allora andava al bar del Brandini, eravamo tutti lì. Oppure quando chiudeva anche lui verso le 2 la notte per il viale. E questa era la situazione normale, si giocava a frisbee, si faceva a pallone per il viale, perché anche i passaggi delle macchine a quell'ora erano molto molto scarsi, non è come ora. E quindi dovevamo trovare delle alternative. Una di queste fu la canzonetta del carnevale, che ci impegnò praticamente dall'inizio dell'inverno, diciamo dalla fine immediata dell'estate, a fare le prove. Tutte le settimane facevamo le prove alla sala di musica, fino ad arrivare a febbraio, ai primi di febbraio, fine gennaio, dipende ovviamente, te lo sai bene come funziona. Quando c'è il carnevale la canzonetta veniva fatta un po' prima, perché doveva essere l'inno del carnevale durante i corsi mascherati quelli. E noi ci si prese questa, si entrò in questa impresa, diciamo così, e il primo anno si stravinse. Come gruppo Lumacons? No, il primo anno ancora il gruppo Lumacons non esisteva, nel senso il gruppo era lo stesso, ma si chiamava Castle Band. avevo già fatto riferimento a quella trasmissione quando ci siamo visti un annetto fa. Castel Band, perché noi per divertirci fra le varie cose andavamo al casello dell'autostrada dove c'erano tutte le puttane. E allora non mi sembra che si chiamassero così, eh? Si chiamavano band. No, le chiamavano per nome, allora c'era... Puoi rimetterti il giubbotto, Marci, perché ti vedo in crisi. No, ormai... aspetto la 22esima. Quindi la banda del casello, perché andavamo lì a dar fastidio a queste puttane che lavoravano piccinini. Piccinini, sì, noi a dargli fastidio. Dopodiché il nome Luma convenne fuori dopo la prima canzonetta, insomma. Ma voi perché stravincevate, oltre a essere bravi? Dici perché. Per due motivi, perché la camorra, la mafia e l'andrangheta noi qui a Fogliano ci faceva poco, nel senso che avevamo tutte le ragazze che andavano a raccogliere i biglietti delle votazioni nostre. Sì, perché si raccoglievano le votazioni in sala, il pubblico ascoltava tutte le canzoni e poi faceva un biglietto con scritto quello che preferiva. E che succedeva? C'era una giuria di quelle qualificate che dava un tot di voti e poi c'era quello del pubblico, che però il primo anno quello che contava era quello del pubblico, perché la giuria tutti insieme mi sembra era sui 400 voti, e mentre quello del pubblico era 900 voti. Allora noi quello che potevamo fare era dire alle nostre ragazze: prendete tutti e strappate i voti dati a Tizio Caio, quello che secondo noi era l'antagonista del momento, e il primo anno infatti si stravinse proprio alla grande. Dopo cambiarono le regole, pare che gli altri non abbiano ricevuto nemmeno un voto, gli altri concorrenti. Il picche che avevate strumenti o eri solo coro? No, solo coro. Suonava per tutti da regolamento il gruppo del Monte del Pagliai, storico. Così suonava il gruppo del mondo, e anche lui era dalla nostra parte, perché gli dicevamo: a noi non ci interessa niente della canzone, quindi se si vince la prendi te e la firmi te, e quindi per la SIAE ogni volta che al carnevale la facevano arrivava soldi a lui. Eh beh, siamo a 22, Marcello, guarda, rimettiti tutto, dai, facciamo perché... così, no, perché muori di freddo stasera. Tenevo, vuoi farti vedere? C'è un attimo la panciera del falla vedere, allora vai, falla vedere, dai. Un'altra cosa, eravate tutti, cioè te c'hai la voce da basso, te sei un basso. Sì. Il picche? No, il picche è un tenore. Era un tenore. Era un tenore. Tra l'altro, qui, se mi bravo. Posso permettere, devi. Visto che ho saputo che lui, che Giorgio in questa storia non c'era, sono stato insieme al picche, al gruppo polifonico foianese, era più o meno le 10:30 a Fogliano, sì, quella sera, in un tour canoro in Austria, e questo per... secondo me per far capire anche la generosità del picche, c'era in programma un concerto molto importante in una famosissima cattedrale viennese, e però i tenori dovevamo essere al completo, ma lui non era potuto venire insieme a noi in pullman. Bene, a un certo punto ce lo vedemmo arrivare vestito di bianco, in un completo bianco, aveva preso l'aereo, una certa... aveva preso l'aereo per essere presente a quella, quindi, a quell'esibizione che era forse la più importante di quella tournée. Quindi, e quindi anche come generosità. Diceva, come, scusa? Generosità. Certo, e quindi come diceva Rachele, si è presentato, infatti fece anche scalpore, perché noi eravamo già sul palco pronti a iniziare ad esibirsi, e lui arrivò in un'ala di persone vestito di bianco con lo stile che lo contraddistingueva. Racconto due fuori da contesti, Luma, con se eccetera, cioè, perché sennò si ripetono le stesse cose. Mi è venuta in mente adesso, 1980, finale Coppa Davis a Praga. Cioè a me me ne poteva fregare di meno, e a quelli che erano con me uguale. Ma c'era Praga di mezzo. Però e il viaggio un giro, dei nostri. Si va a fare un giro. Buonasera, Fatucchi. C'è anche Fatucchi che è arrivato. Buonasera, buonasera. Buonasera. Presidente. Stavamo parlando del PIC. E quindi se ti vuoi aggiungere a noi... Allora continuiamo intanto il racconto. Eravamo a Praga per la Coppa Davis. Per la Coppa Davis, e quindi... siamo andati a vedere la partita, perché ovviamente sei lì, non puoi non andare, ma non è che c'era un amante puro del tennis come puoi essere te lì fra noi. E allora quindi si guarda questa partita, dopo la partita usciamo da questo palazzo, era il palazzetto del ghiaccio, che avevano tolto il ghiaccio e ci fecero la finale. Si esce fuori, c'era io e lui e mi sembra Vittorio Pecchi, sì, Vittorio Pecchi. Si esce fuori lì e faccio, nevicava, ma proprio di brutto, eh. Dico, dai, se pigliamo un taxi. Dice, ma io, dice, voglio provare i mezzi qui della zona. Dico, ascolta, imbecille, c'ho in cirilli con le cose, ma ando cazzo vai? Dico, ma ando vai, ma ando te si ritrova? Ma che io, come faceva lui, io te faccio vedere qui e là, ma io, guarda che dopo te perdi, noi se va al ristorante solito, eccetera, eccetera. Io prendo il pullman perché voglio provare i mezzi pubblici qui in Cecoslovacchia. Allora ancora la Cecoslovacchia. E allora fa come te pare, io chiamo il taxi e montro il taxi e vado a scena. Lui aspettò, questo me l'ha ridetto dopo, 3/4 d'ora il pullman sotto una tettoina così. Poi sale su e trovò fortunatamente una donna e gli faceva ticket, ticket. E lei dice ticket, allora mi fece il verso del portafogli, dette il portafogli, e fece per fare il biglietto. Dopodiché ci cominciò a parlare a gesti, come faceva lui ovviamente, a gesti. A quel punto lì lei gli fa, dice, no, te dammi il portafoglio a me, e lui gli dette il portafoglio, perché aveva paura che se ne andasse. La string la faccio breve. Una circa di notte, che non visto più, sento fa in centro di Praga, proprio in San Venceslao, sento fa dico, ma questo è Picche, allora ma faccio, oh imbecille, ma che fa così? Questa qui la tirava, c'era il ghiaccio alto, questa la tirava nei binari, hai visto quelle del filobus? La tirava così come fosse una palla e questa faceva 20 metri con il culo. Poi dopo la storia va avanti, ma non la posso raccontare. Ok, allora ora poi dopo ci racconti altre cose, ci raccontate. Ce ne sono, intanto vorrei aspetta, prima di andare, siamo a record con 27 contatti contemporanei e saluto Brunero. Brunero Chifalchi, sì. Grande Bruni. Poi Paolo Marchi, Alice Bellini, Barbara Arrigo, Federico Pulcinelli, Alice Cervasi, Marco Ciramondi e ancora Vito Crisci e bravo. Andrea Capannelli di Bombolo, bravo. Di Bombolo, bravo. Eddie Posani di Bombolo. E allora bravo. Andiamo un po' con un po' di musica. 27, non stiamo troppo, facendo non troppo, 28, stiamo facendo il record, ma non avevamo dubbi. Sì. I sit alone on the floor, this makes me cry. questo era The Homeless Kids. Erano i Homeless Kids con Broadcast dal disco No Reason del 2016. Non ci sono ragioni per... Si è visto? Vabbè, pazienza. Stiamo parlando a Shabalon del mitico Pic. Abbiamo iniziato con Giorgio, siamo certi che non basterà quest'ora. Tra l'altro sapevamo che avrebbe avuto successo questa trasmissione, perché l'argomento è troppo interessante. Adesso Marcello fa una domanda interessante. Scusate, necessario. Perché sto leggendo ancora. Alice Gervasi dice: le ripicche sono troppo belle. E qui possiamo anche condividere. Mettiamo un like anche noi su questa. No, è tuo figlio. La Gervasi. Allora, ora io chiedo. Una domanda intelligente. Non so se la riterrai No, però prima parlavamo, Rachele, della generosità del Picche, e secondo me il fatto che lui fosse spendesse tanto del suo tempo, probabilmente anche a scapito della famiglia, però in varie associazioni e iniziative foianesi, secondo me dimostra anche la sua generosità nei confronti della comunità, del prossimo conquistato. Ma sì, sembrava una confessione, te lo dico, a un certo punto, perché pare sempre più sottovoce, non credo... Volevo andare sotto il tavolo, ma ora è troppo illuminato. No, io penso, cioè, sostanzialmente i pochi anni che ho vissuto il mio babbo, penso di aver capito che comunque era un personaggio, e come tale era comunque ricercato, era comunque tutti gli volevano bene, era impegnato appunto nel coro, anche nella banda, nel carnevale, perché comunque era impegnato anche nel carnevale, ha creato a quanto so io anche dei carri lui con pochi altri negli anni 80. Sando al carnevale. No, quello l'ha fatto mio babbo. Ok, allora vedi, mio babbo ha fatto anche un carro di bombolo. Ora mi fai rientrare questa storia. C'è polemica. Bene, si stava parlando di associazioni. A quei tempi, quando non c'erano i cantieri, sì, assegnavano un cantiere, no? Sì. E dicevano: chi lo vuol fare? Appunto, il Cito Terra se lo faceva, sì, lo facevano, sì, quelli azzurri, i guardia, no? Eccetera, eccetera. E noi un anno con l'UMA consigliere si fa anche noi, che dopo però i primi 10 giorni sarà già finito i soldi, perché tutte le sere si andava a mangiare al torcio, si andava al torcio tutte le sere, 20 persone mangiava bene. E quindi il carro non fu fatto. No, fu fatto, si comincia a cavare di tasca. Ah, ok. Allora, si vinse con Sandoval Carnevale. Se te vai a vedere nei premi di Bombolo, c'è scritto primo premio Sandoval Carnevale. Perfetto. Quindi lo scoop... Non ce n'era uno di Bombolo lì che lavorava. Uno va bene, non importa. L'importante è che la vittoria è andata a Bombolo. Certo, infatti. Lo scoop è che Giorgio Gervasi, oltre al picchio, ma... Giorgio Gervasi ha fatto un carro di bombolo, ha fatto vincere. Io sempre poco faccio. Sì, no, ora scusate, mi ero fatto prendere. Sì, perché non si trattava sicuramente di lavorare. Giorgio Gervasi andava al torchio. Ecco. Andava al torchio. E poi facevo comitiva all'incantiere, ma non è che facevo tanto. Non abbiamo dubbi. Volevo fare ancora una... C'è polemica. No, polemica, non siamo qui così. No, per caso. Vabbè, d'altronde era una delle associazionismo. Era una delle associazioni per le quali seguiva. Nottamboli. Qui lo fece Magia d'Alberto, che anche lui è scomparso. Frappino, che ancora fortunatamente c'è. Loro erano quelli, gli unici che sapevano veramente fare. E noi sarà tutti manovalanza. Poi quando si arriva alla fine, Sandro Averigio si comprò la testa principale. E belle fatte. E lui fu il carro, quello fu il carro, e si fece Sandoca, che era il momento che la televisione da onza, e si vinse. E vinse Bombolo, questa è la cosa Bombolo. Importante. Quindi l'importante è questo. Penso, uno dei premi che c'hai, lo devi anche grazie a me. Questa è veramente... Io non vorrei deviare la trasmissione, ma se me ne vado altre 3-4 di coppe, le piglio, non è che... Allora, quelle future, quelle passate no. Ma volevo fare un'altra domanda sul Pic. Perché viene chiamato il Pic? Perché sarà Federica, ha fatto sì col capo. Perché era parecchio. Ma se vuoi parlare, perché sostanzialmente era un po' come noi, era un po' parecchio piccoso, so, era molto da bambino, so. Era molto per motivo che dice la Rachele. Perché da bambino era parecchio determinato, in quel modo o in quel modo. Quindi, modo. Il soprannome il Pic che dice che veniva chiamato Matassina. Per i capelli, notare. Aspetta, ce n'è una meravigliosa, questa qua. Qui dove siete? Cioè dove qui sono? Dov'è? Dove sono? Al Garibaldi. Che, ma con erano Fabio suoi veri? No. Certo, sì. Ma stupendo. Con Fabio Franci e Chiodino, detto, cioè chiamato detto Chiodino. Davanti Guido. qui ormai Chiodino è il nome. Chiodino detto davanti. Poi il resto Guido. Si vedrà. Sì. Aspettate che devo fare un riassunto, perché sì. Siccome sono tanti quelli che ci stanno seguendo, i nuovi entrati sono Roberto Stefano Giustini che dice siete all'aperto così Marcello siamo sicuri che non si spoglia, veramente il giubbotto se l'è già tolto, poi Barbara, lo so, mi volete in una corsia d'ospedale, Fabio, Alfredo Capannelli, l'ho già detto, Stefano Scapecchi, Paolo Fei, sì ma sta seguendo. Esatto. Allora, ecco, aspetta, altri episodi, altre cose. Ora continuo a chiedere a Giorgio perché vai, magari voi l'avete vissuto. Lui, sì. Ci può contare, sfortunatamente ne so più io. Sì, per davvero. Allora, gli anni 70 sono quelli in cui avete iniziato a fare. Un'altra storia di Praga. Sì. Praga ha dato tanto. Se finisce Praga, sì, no, tutte danno, però ora Praga. Solita uscita, io e lui soli, si passa nel centro, vede due scorfani. Che stranissimo a Praga. Aiutami a dire due scorfani, lui, un ditone broccolone, excuse me, io mi giro, le guardo, non si guarda veramente, brutte più della fa, e faccio, vaffanculo, e continuo. E lui, excuse me, non sapeva più che dire perché non sapeva una parola in inglese. Ma dove vai? Imbecille, ma dove vai? Mi faceva. Allora andiamo che è tardi, allora dai, vieni via. Arriva, si trova con gli altri ragazzi e fa, oh, guardatelo, ha sbagliato un rigore a porta vuota. No, bloccate due. Mi fa, ma che è andato via, un rigore a porta vuota. Quindi anche filosofo. Meraviglioso. Sì, sempre da filosofo. Quando nevicava, se eravamo fuori, dice, come sarà? Dipende, se nevica dal mio fratello o dal Frischi. Cioè? Che differenza faceva? Perché se nevicava verso il Nicchio, durava poco. Se nevicava verso il Frischi, reggetevi che barulla, perché e viene alta, capito? Lui aveva tutte queste situazioni popolari di Foiano, in base a quello dice dovrei sapere come fa Foiano in pratica, capito? Stupendo. Mi viene in mente un'altra cosa che avete fatto sempre quando facevate la canzonetta, ma questa è veramente troppo bella. Siccome la gente che doveva venire a votare sentiva per la prima volta i brani e quindi li sentiva tutti per la prima volta, mentre voi per farglielo diventare più orecchiabile un brano che facevi, quella foto che hai descritto prima del flauto era la foto di propaganda. Praticamente il Pic ci aveva un 1100 nero e lì ci si montava 15-16. Infatti una volta carabinieri disse andate via perché non sapevo più, non ce la facevano a contare. Ci fermarono uno, due, e quello incolla quell'altro, quella grappolata così. che sembra un barzelletto, ma è verità. E allora si metteva praticamente questi manifesti con le facce nostre, come quella fotografia, grandi, gigantografie, e poi si faceva sentire sempre, non si poteva far sentire la canzone, il motivo e basta. Cioè, passavi con la macchina per paese. Sì, lui aveva il negozio, che in quel periodo il negozio ce l'aveva dove ora la gelateria, mi sembra, sì, dove era la gelateria ora. Ricordiamo il negozio di fiori storico, sì, che ora hanno la Rachele e Federico. Che hanno ereditato loro, l'hanno preso loro. Quel negozio lì al momento era, che poi l'ha aperto lui di sua iniziativa, l'ha inventato lui quel negozio, perché c'era una tradizione familiare. Prima aiutava il babbo alla frutta e poi dopo volle mettere un'attività in proprio, capito? e ce l'aveva queste cose lui, di essere indipendente dalla famiglia anche sotto l'aspetto economico. E allora apri questo negozio e noi con questo 1100 posteggiato fisso lì davanti, tutti quelli che passavano dalla mattina alla sera sentivano sempre sì, che quando veniva la canzonetta ormai ce l'avevano nell'orecchio, sì, che anche gli indecisi, ma una bellina questa, perché ormai era entrata, pare che da lì siano iniziati tutti gli studi sul subliminale e, certo, e sul condizionamento a distanza delle masse. Vuoi fare un'altra domanda, Marci? No, mi sento a mio agio così. Ma no, ti vuoi rimettere il giubbotto? Ma no, ormai non sento, non ho la sensibilità del freddo, quindi vabbè. Senti, voi invece avete vogliamo raccontare di quando aveva la moto Aiutami te Giorgio, che il mio nonno leggeva sul quotidiano del giorno, il mio nonno tipo incidente, morto ragazzo, il giorno dopo dice, c'è una volta, cioè, col giornale, col quotidiano si faceva le sigarette. Allora dice che un giorno parte mio babbo a tutto fuoco, rifà un giro di Foiano, rifà un altro giro di Foiano con la moto. Il primo giro riportatemi la testa, il secondo giro gli disse va piano se no domani te fumo a te. Giusta, meraviglioso. Io sempre raccontate, chiaramente. Simo, ogni tanto ti chiedo quanto siamo, ma chi lo sa. Riportatemi la testa, che la imbalsamo la testa, riportatemi, tanto vedrai che prima o poi. Poi avete fatto anche tante altre cose insieme. Aspetta, Kawasaki 900? No, quel periodo c'era il Multaco, che lui gli piaceva il motocross in quel momento. Poi dopo passò quelle da strada. C'era il Kawasaki 900. C'era il Chopper, ce n'aveva diverse. Stanno. Prego. Parlandone poi anche alla Federica e alla Rachele gli vengono in mente degli aneddoti che... No, giusto, della moto mi raccontava una volta la mia zia che quando la mia nonna, cioè la mamma del mio babbo, era all'ospedale a Firenze poco prima che morisse, la mia zia pallina gli mandava la roba da mangiare, chiaramente sempre a livello culinario noi gli mandava da mangiare per il mio babbo in moto, arrivarono i tortellini a Firenze caldi perché lui aveva tipo in 20 minuti era arrivato a Firenze, quindi la mia nonna mangiò tortellini di Foiano caldi, meraviglioso. Qui da dietro mi dicono di ricordare anche geste calcistiche. No, io questo sinceramente lo posso dire solo a parte il periodo dei lumaconi, dei tornei, dei bar, perché era un pub, quindi quello sì, ma quello che credo si riferiva a loro era ancora prima, quando ancora io ero troppo piccino. No, poi se c'era da faticare e lì era il torneo praticamente che facevano, dove fanno la festa della rana a Broglio. E loro riuscirono a prendere la coppa dell'onestà, coppa disciplina, disciplina con 16-17 squalificati. Ogni partita ne andava fuori 3-4, poi dice chi è che deve andare fuori? Dovevamo buttare fuori Fistione, che era praticamente l'unico che sapeva veramente giocare. Si alzava Ossino, chi è che va fuori? Dice no, lui, e buttava fuori. Ma come? Ma io non ho fatto niente, va fuori te. E funzionava così. Poi dopo all'ultimo, siccome lì escluso 1-2 sapeva giocare, nessuno perdeva, no? Ma noi qualcosa se vuole, se no si balta ogni cosa. E gli detto la coppa disciplina con 16-17 espulsi. Meraviglioso. Aspetta. Aveva firmato per loro il povero Don Diogene, perché era lì con preti. E sicché, ma chi mai mandato? Gli diceva il collega prete, chi mai mandato? Aspetta che di qua qualcosa dicevano. Fatto con squadra Capolona, San Giuliano, squadre d'Arezzo, che in una partita il picche con una bozza prese il palo, il pallone si sgonfiò, al che quelli di San Domenico, mi sembra, e gli disse, dice, ora ci ripaga il pallone, vieni qui che faccio un mannello d'ossi. Un mannello d'ossi. aspetta, vieni, noi continuiamo all'infinito. Meglio di me, periodo mistico, quando andava col tonacone, col bastone in giro per santuari. Oh, lo sa, quando andava alle vertiche. Sì, sì, direttamente. Vabbè, ha avuto anche un periodo mistico. Io direi di un Ataldo di Corpone, la vuoi sapere? Ma certo, sono qui apposta. Ora me l'ha ricordato col tonacone. Una sera con un sacco di ragazze amiche di Sinalunga facevo una festa che lei, questa ragazza di Sinalunga, aveva una casa in campagna. E lui dice: no, non posso, non posso, ragazzi, non vengo. Vabbè, si va a noi, se poi ce la fai, vieni, se no ci si vede domani. E noi si va a questa cena, a questa festa. A un certo punto scappa qualcuno e dice: ragazzi, si fa una seduta spiritica. Te pensa, questa casa è isolata nel bosco, proprio fuori da tutte le vie di Dio, senza luce elettrica, con le candele, sono proprio messi così. Allora tutti con le mani così, questa seduta. A un certo punto dice: allora, si era messo d'accordo solo con uno del tavolo. Allora dice: che succederà nel 1983-90, non mi ricordo che anno era. E si sente blu, spanca alla porta, arriva Aldo di Corpone, era tutto con la vegeta illumina nel viso, con un tonacone bianco: lo prenderete tutti, perché era venuto a prenderlo con la moto, l'aveva caricato, lui era già vecchio abbastanza, Aldo di Corpone, l'aveva imbrattato con la vegeta illumina tutto bianco, con questo tonacone bianco. Qualche donna svenne, ma mica per scherzo. Sì, ma sul serio, giù. Lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Meravigliosa. Riprendiamo solo un attimo fiato con una canzone e poi continuiamo. Intanto poi torniamo alla cruda realtà musicale. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world. Come to the world. Baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks secret words in Spanish, where the night turns out the light of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, take me by the hand, make me dance all night. I wanna take the chance. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, stranger in the depth of your arms, beautiful stranger. Ed eccoci di nuovo insieme con Indy Zara, sì, ora ti picchio, ascolta, Indy Zara, ok, Indy Zara con Beautiful Tango. Stiamo parlando, ah, ci sta guardando da Lecce Mauro Pantani, stasera un trionfo, tutti venerdì sera. Allora inizio a dirlo ora, venerdì prossimo potrebbe esserci il grande scoop, ci dovrebbe essere il Cisco, quindi tutti voi che state continuando a seguire stasera e soprattutto proseguite a seguirci anche venerdì prossimo. Per tutti coloro che sono che brancolano nel buio, non sanno da che deriva il nome Chabalon, è la puntata giusta. C'ho un'ansia quando parti, Marcello, perché non so mai come va a finire. Ma il problema è quando arrivo. Di che parli? Io dico che ora mi muore. E invece sì, hai fatto un discorso c'ho giusto. C'ho l'apnea, lo sai che c'ho l'apnea. C'hai l'apnea notturna anche quando siamo in diretta. No, il giorno c'ho i postumi delle apnee notturne. Aspetta che qui è successo qualcosa. La Katia dice viva Mauro. Allora, viva Mauro. Rachele voleva raccontare un altro aneddoto. Sarà stato tipo il 90, 88, 90. Aspetta, negozio... si sente nel microfono, scusa. Aspetta, sono le 11, facciamolo sentire che sono le 11, perché no, siamo in diretta. E Foiano è l'unico paese, penso, in Italia che le suona tutte le ore. E anche 5 minuti, quindi chiudiamo in 5 minuti o... Eccoci. C'era il negozio de Privilege che era in piazza Mazzini, piazzetta Mazzini. Sì. E il mio babbo aveva il furgone chiaramente con le chiavi inserite davanti al negozio. La notte gli fecero il furto al negozio Privilege e usufruirono del furgone del mio babbo per prendere. Era comodo, era lì la roba. Quindi si uscì la mattina. Non si trovò il furgone, io mi ricordo, ieri mia sorella, pianti, babbo, ti hanno rubato il furgone, ora come si fa, si diventa poveri, non c'è soldi, ci hanno rubato il furgone. Tra l'altro il furgone aveva una settimana, quindi anche nuovo. Lui se ne esce fuori con la battuta, non ve preoccupate, tanto oggi non mi serviva. Beh, aspetta. Like, fuori, applausi. Questa secondo me racchiude un po' tutta la vera filosofia del picchi. Ma io mi ricordo ancora proprio la scena, sì. Specialmente la Federica proprio morente, questa cosa di rubare il furgone, preoccupatissime, lui, non vi preoccupate, oggi non serviva. Che meraviglia. Allora, siamo andati già oltre le 11, ma credo che un altro paio d'aneddoti, se ci sono... Non so, Giorgio, ci vuoi raccontare qualcos'altro che ti viene in mente negli anni successivi? Zingarate fatte, eventi di vario genere? Sono tante, capito? Cioè, se... c'ho confusione in testa, perché sono talmente tante le situazioni che se non metto a fuoco il momento... Non saprei veramente che dirti. Altre trasferte, altre vacanze all'estero da qualche parte? Le vacanze all'estero, sì, anche con il coro, perché dobbiamo ricordare fra le varie cose, che, come mi sembra prima è stato accennato da Marcello, che lui cantava da tenore nel coro del Polifonico Foiano, anzi è stato uno dei fondatori, perché noi abbiamo cominciato per scherzo e poi è andato avanti questo coro, insomma, che c'è tutt'oggi. Di cui sei anche presidente. Sì, che sono presidente io, e io devo dire la verità, avevo smesso, ho ricominciato a cantare quando è morto lui, che abbiamo cantato per lui e da lì poi dopo ho continuato e adesso faccio il presidente da diversi anni. Però come aneddoti posso dire, quando siamo andati in Ungheria ovviamente ci sono però delle cose che... Ma te, diciamo, ho già capito, ci sono difficoltà a dirle, ma te di bip... Ma allora faccio bip. Vabbè, prova a dirne una, dai. Cioè, Posso dire che è sempre stata una persona molto goliardica, interessata al sesso femminile, poi magari aveva dei buoni e dei cattivi risultati. Poi, ecco, in quel contesto posso dire che gli piaceva una ragazza, ecco, l'unica cosa che posso dire magari è questa, gli piaceva una ragazza, perché eravamo a Debrecen, era praticamente una rassegna con tutti i cori, e lì c'erano di tutte le nazionalità, giapponesi, cinesi, russe, e chi più ne ha più ne metta, e noi eravamo gli italiani. E allora a quel punto lì non avevamo questa età di oggi, intendi bene, si sta parlando di almeno 30 anni fa. Quindi dice, madonna, mi piace quella lì, guarda lì, quella lì mi piace, però non so manco una parola di inglese, dice, come faccio ora a comunicare? Dico, non ti preoccupare, dico, ci penso io, ci vado a parlare, che gli vuoi dire, no? Insomma, stringo e vado al dunque, dopo insomma ci andai io con questa qui. E da allora lui mi disse, te sei come il metano che ti dà una mano. E forse allora mi chiamava metano. E lì si capì anche l'importanza di conoscere le lingue. Bravo Marci, sempre una base profonda. Va bene, io ragazzi, bisogna a un certo punto, sì, le cose belle diciamo finiscono. Andare a prendere un antibiotico. Però sì. Però ad ampio spettro, ovviamente. Però visto che l'argomento è ancora molto vasto, ci ripromettiamo di farne un'altra, magari sempre qui, ma verso la primavera. Primavera, perché ora farne un'altra fuori è tosta. È stato tutto o direttamente alle serre del Picche. Veramente potremmo fare uno speciale con cena. Va bene. Dopo Roma, le serre del Picche. Tra l'altro, perché no? Sì. Ora che hai detto della serra, una cosa particolare che aveva lui, che voleva fare il duro. Ci aveva un cuore talmente tenero che alla serra aveva un passeraio, era proprio pieno di passi, gli andavano a dormire. Ah no, scusa, no, perché siccome prima parlavi di un'altra cosa, ho detto moto. Un passeraio di passere uccelli volati. Allora, fece di tutto lui per danneggiare cacciatori, perché non voleva che gli sparasse, cioè delle volte c'aveva delle cose inconcepibili, poi no, dice, ah, questo qui no, che magari vuol picchiare, che poi era il più coglione del mondo, c'era era di un buono proprio pazzesco, però gli piaceva ogni tanto fa quella parte da duro, no, da quasi malavitoso, gli piaceva quel ruolo gli piaceva. Il Vallanzasca di Foiano. Va bene, io direi con questa immagine bellissima, che non sarebbe quella che state vedendo ora, ma quella che ha raccontato Giorgio, di chiudere qua questa sera. Sì. Sono le 9, le 11 e 5. Come giustamente il campanile ci ha sottolineato. Ecco, poco come nostra consuetudine, oltre a ringraziare Rachele, grazie Rachele, ci vediamo presto con un'altra puntata. Ciao, sì, a Shabalon. A Shabalon. Federica. Ciao. Ci vuole salutare anche... Ciao, Teo, bravissimo. E Giorgio, grazie Giorgio, una nostra colonna portante, e ringraziare anche tutti il nostro i nostri pubblico, ospiti che outdoor, ringraziamo solo il fatto che c'era una tenda sopra di noi che ci ha salvato. No, aspetta, faccelo con la sigla, sì. No, però prima di finire, come finiamo? Con la frase intelligente di Marcello. No, siamo oltre la fascia protetta. Ho provato, è tutta la sera che provo, stasera non trovo proprio il tasto giusto per dirla. Allora direi che abbiamo finito qua, è stato bellissimo, freschino, non freddissimo, no. Freschino. No, la devo... Aspettate! Allora lui finiva sempre tardi al lavoro, stanchissimo, prende, va alla Luna in Gabbia, allora si chiamava Luna in Gabbia, entra dentro e fa... Dici, ma una pizza me la potete fare tipo 10:30, no? Non pensiamo ai tempi di oggi, pensiamo ai tempi d'allora, 10:30 era già. Dice, sì, vai giù. E lui va giù, perché era di sotto, perché allora avevano, dove adesso, no, praticamente l'albergo, era tutto insieme. E entravi giù di sotto dove c'è il ristorante La Zinfarosa. Lui va giù, si mette lì, aspetta, dice, a un certo punto, questa raccontata proprio da lui, Dice, io mi addormentai. Dice, mi svegliai dopo un paio d'ore. Mi guardai intorno, non c'era nessuno. Dice, che faccio ora? Dice, che faccio? Le richiamo, vado via. Dice, preso, andai via. Meraviglioso. Vabbè, non aggiungere altro. No, ma di qualcosa. No, saluta, dalla buonanotte. Vedere. Aspetta, che saluto anche un po' di ragazzi, un po' di persone. Quindi salutiamo ancora Catiuscia, Marchi, Ketty Alessia, Daniele Donnini, Simone Marini, Augusta Chinoli e Daniele Donnini, una marea di persone, oltre 30 persone collegate sempre con picchi di 40. Tra l'altro Daniele, anche lui che è il maestro del gruppo polifonico Foianese, avrebbe anche ben donde concerto di Joe Cocker. Lui, il Franci e il Magi Mario vanno a vedere il concerto a Bologna, prendono, ritornano, quando furono a Renzino, alla chiesa di Renzino, il picche si accosta, dice, che fai? Ho bisogno di dormire mezz'ora. Renzino, per chi non è di Foiano, è a un chilometro dal paese, è di Foiano. Ah, mamma mia, che foto spettacolari, fantastico. Ci ritroviamo un'altra volta, promesso. Ci ritroviamo un'altra volta e ne facciamo un'altra. Beh. Ok, faccio la sigla. Non stacchiamo con la diretta, ma stacchiamo con l'audio. Quindi faccio la sigla per chi ci ascolta in podcast. Avete ascoltato e visto Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video Valeria. Eria. Eravamo all'aperto. Erto. A venerdì prossimo. Che freddo.